Europa 24. Un saluto, bentornati all'appuntamento con Europa 24. La scorsa settimana vi abbiamo raccontato quella che di fatto è stata la sessione plenaria conclusiva di legislatura del Parlamento europeo. Ovviamente ora è tempo di sondaggi a livello europeo, quando ormai manca poco più di un mese al voto per il rinnovo del Parlamento. Sentiamo. Manca poco più di un mese alle elezioni europee ed è tempo di sondaggi. Uno dei più recenti a livello europeo è stato elaborato da Poll Watch 2014. Riunisce i sondaggi nazionali e li rielabora secondo la metodologia di tre professori della London School of Economics. Previsioni periodiche dell'esito delle elezioni 2014 del Parlamento europeo, previsioni che rispondono a diverse domande. Quale partito conquisterà il maggior numero dei seggi e sarà quindi in grado di nominare il prossimo presidente della Commissione europea? Il Partito Popolare Europeo consoliderà la sua posizione come principale all'interno del Parlamento? L'estrema destra si aggiudicherà un numero di seggi sufficienti per formare un nuovo gruppo parlamentare? Il centro-sinistra riuscirà a conquistare la maggioranza? Le previsioni più recenti risalgono allo scorso 2 aprile e mostrano i socialdemocratici e il PPE in un testa a testa a 212 seggi ciascuno. Le previsioni sottolineano che i socialdemocratici hanno aumentato i consensi dopo il primo mese di governo di Matteo Renzi in Italia, mentre il PPE è risalito in Slovenia e in un paio di altri stati membri. Secondo la previsione di Poll Watch, nel Parlamento europeo i liberal democratici dell'ALDE, con 62 seggi, sarebbero la terza forza dei gruppi tradizionali. Seguono la sinistra unitaria, con 55 deputati, i conservatori dell'ECR, 46, e i Verdi, 38 deputati. C'è poi un capitolo dedicato all'interno del sondaggio all'area cosiddetta euroscettica. Da una parte, infatti, c'è il gruppo EFD, composto dagli indipendentisti britannici del UKIP e dalla Lega Nord. Dall'altra, sempre fra gli euroscettici, ci sono i cosiddetti non iscritti, come ad esempio in Italia il Movimento 5 Stelle. Secondo le previsioni Poll Watch, tutta quest'area potrebbe conquistare 126 deputati su 751. I sondaggi sottolineano come la corsa per la successione dell'attuale presidente della Commissione Barroso sia difficile da prevedere. Il candidato PPE, Jean-Claude Juncker, sembra avere più sostegno all'interno del prossimo Parlamento europeo rispetto al candidato socialdemocratico Martin Schulz. In ogni caso, secondo Poll Watch, se nessuno dei due candidati sarà in grado di assicurare una chiara maggioranza dopo le elezioni, potrebbe essere possibile che i governi dell'Unione Europea provino a proporre al nuovo Parlamento ognuno il proprio candidato per la presidenza della Commissione. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Inchiesta della Commissione europea sullo scandalo dell'acqua regionale all'arsenico nel Lazio. L'emergenza della capitale e della regione Lazio potrebbe tradursi per l'Italia in nuove pesanti sanzioni, poiché l'indagine comunitaria avviata lo scorso 13 dicembre deciderà sul mancato rispetto o meno delle direttive sui parametri della sostanza tossica presenti negli acquedotti. Solo due mesi dopo, Comune e Regione si sono mossi con l'ordinanza del sindaco che ha vietato il consumo dell'acqua nei quartieri serviti dagli acquedotti appunto coinvolti in data 21 febbraio. Roberta Angelilli, già vicepresidente del Parlamento europeo, si è attivata dopo la pubblicazione dell'ordinanza di divieto e spiega quanto rischia l'Italia al microfono di Anna Marino. La regione Lazio non si sta ancora adeguando a quelle che sono le normative comunitarie sull'acqua. La Commissione europea ha lanciato l'allarme, ha avviato questa procedura di indagine già a dicembre. L'Italia rischia la procedura di infrazione. Che cosa verificherà la Commissione europea? Le condizioni delle acque, quindi i potenziali danni all'ambiente e soprattutto alla salute dei consumatori, considerando tra l'altro che l'Italia ed in particolare la regione Lazio ha avuto già tre deroghe. Siamo davvero fuori tempo massimo. E che cosa potrebbe portare, diciamo, questa indagine? Ad una apertura di procedura di infrazione e pertanto a possibili multe, decine di milioni di euro. Ma soprattutto il problema è la salute dei cittadini. Tra l'altro il commissario, nella lettera che mi ha inviato, ha detto che da parte delle istituzioni europee c'è il massimo impegno e soprattutto la massima urgenza per fare tutte le verifiche del caso. Sull'Italia già pende un'ammenda di 56 milioni di euro. Esatto, soprattutto l'Italia ha il record negativo in termini di procedure di infrazione. Noi abbiamo superato le 100 procedure di infrazione e il 30% di queste procedure di infrazione riguardano proprio la salute e l'ambiente. Nel mirino c'è la regione e il comune, anche l'Arsial? Esatto, tutte le autorità competenti. I tempi di questa procedura saranno rapidi, anche perché già sono passati più di 4 mesi. Quindi si parla di mesi? Probabilmente settimane, perché a rischio c'è la salute. Bene, con questo è tutto per adesso. Naturalmente Europa 24 torna stasera nell'appuntamento di Europa 24 Notte e domani intorno alle 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.